Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. 38.000 casi solo nel 2011, con un giro d'affari da 16 miliardi. In Italia aumentano sempre di più i reati ambientali. Questa storia, se vuole, gliela posso pure raccontare. Lei è una persona intelligente, fa il suo lavoro con coscienza, è in grado di distinguere il bene dal male. Tutte le storie alla fine si riducono a una sola, non è così? C'era anche una canzone che lo diceva, forse era un libro, non ricordo. Non è che voglio girarci intorno, dottore, è che questa storia qui è difficile da raccontare in un modo diverso, che io nel mio lavoro ci ho sempre creduto. Tecnicamente, lei dice, ho infranto la legge. No, certo, tecnicamente lo aggiungo io, è ovvio, perché tutto quanto si riduce a una questione burocratica e tecnica. La legge non è questo alla fine, e non vale mica sempre, questo è il bello. Questa storia bisogna raccontarla dall'inizio, dottore, altrimenti è troppo facile. L'azienda l'ha creata mio nonno, in cantina. Come quel tizio che ha inventato il telefonino che si tocca lo schermo e quando è morto sembrava fosse morto l'inventore della cura per il cancro. Quando è morto mio nonno invece è solo toccato a mio padre. E quando mio padre era troppo stanco è toccato a me. Sì, dottore, abbiamo sempre raffinato petrolio, quella roba ce l'abbiamo nel sangue. La prima piattaforma per l'estrazione da queste parti l'abbiamo costruita noi. Da bambino ci andavo in cima e guardavo il mare, la spiaggia, la città dietro la spiaggia, la città dietro la città, e mi sembrava che non sarebbe mai finito, che ci fosse del mare dappertutto dove poter costruire piattaforme su piattaforme. Immaginavo una città con i piedi affondati nell'acqua e la disegnavo pure. Il vecchio Minta, sì, Alfredo Minta, lavorava per mio padre. Comandava lui alla piattaforma, lo conosco bene. Veniva a mangiare a casa nostra, a Natale, a Capodanno, conoscevo bene i suoi figli, si giocava insieme anche al mare, tranne in acqua. Mio padre non voleva che facessi il bagno, mi teneva all'asciutto. Era tremendo, un problema che mi sono portato dietro fino a oggi. Qualcosa che ha a che fare con l'esclusione, dice il dottore da cui vado in analisi. La figlia del vecchio Minta era proprio bella, sa? La guardavano tutti. Alta, mora, se non fossimo qui con il maresciallo che ascolta, gliene potrei raccontare su quella ragazza. No, per carità, niente di diverso da quello che fanno tutti i ragazzi, certo. E poi, come dice lei, non è di quello che faceva che si occupa. Del fatto che è morta, certo. E suo fratello, e sua sorella, e sua madre. E ora anche il vecchio Minta, che prima di morire aveva un sacco di cose da dire, a quanto pare. Mi permetta, dottore, ma è comoda, adesso che stai per tirare le cuoia, a dire tutto quello che ti passa per la testa, non crede? Sì, certo, me lo ricordo quando il mare era diventato giallo. Fu un errore imperdonabile. Mio padre arrivò a casa che urlava come una bestia. La governante, la Tina, si prese quasi un infarto, gli cadde la zuppiera, quella di ceramica antica. Mia madre non glielo ha mai perdonato. Era successo che uno degli addetti aveva sbagliato. Quella pompa, lo scarico, doveva stare aperto solo un'ora e poi bisognava chiuderlo per due, così per tutto il giorno. Lui invece si dimenticò di chiuderlo e la roba finì in mare, tutta in una volta. Per quello diventò giallo. Troppa concentrazione di un prodotto che non so nemmeno come si dice, non me lo ricordo mai. È una parola tutte consonanti e trattini. Sì, certo, me li ricordo i pesci, le reti che i pescatori riportavano a galla con i pesci già morti che sembravano cotti. Ma c'è stato un processo per quella cosa lì e siamo stati assolti. Il giudice ha detto che tutti quanti scaricano il mare, che il mare è già morto e non l'abbiamo ammazzato noi. È come se avessimo sparato su un cadavere. Sì, certo, c'è il vilipendio di cadavere, lo so, ma mica è un reato grave come un omicidio, no? E poi il mare non è un uomo, una donna, un ragazzino. Comunque siamo stati assolti e il mio avvocato dice che c'è quella formula latina per cui non mi potete processare un'altra volta. Comunque mi dispiace per il signor Minta, il tumore è una brutta bestia, suo figlio è morto male, povera creatura. Della bellezza non se n'è fatta niente, non si dovrebbe morire così giovani. Però non è giusto che diate la colpa a noi, non c'entriamo niente. Sì, è vero. Abbiamo scaricato in mare, abbiamo comprato i terreni dai contadini e ci abbiamo sepolto i rifiuti, ci siamo pure inventati un marchio di qualità per la frutta che facevamo crescere lì sopra. Non abbiamo controllato davvero i fumi delle ciminiere. E oggi la polvere si appoggia sui davanzali delle case, sui tetti, sulle strade. Ma hanno costruito dappertutto, non sarà colpa nostra anche quella? Potevano stare lontani se avevano così paura. La verità, dottore, è che a tutta quella gente che oggi ce l'ha con noi, gli abbiamo dato da mangiare per anni. Non sapevano dove sbattere la testa, non c'era lavoro e la fabbrica, la nostra fabbrica, è grande come una città. Una città del futuro che sembra che viene da quel film con Indiana Jones, come si intitolava? Blade Runner, sì, quello lì. Lavorano tutti grazie alla fabbrica, sfamano i loro figli, li fanno crescere, li mandano all'università, diventano dottori e via così. E se per farlo abbiamo trasgredito qualche regola, è davvero così grave? Lo Stato ci uccide a noi che facciamo lavoro, lo Stato ci ammazza di tasse, di regole, di impedimenti. Lo Stato è questi cazzo di ambientalisti che se gli tagli un albero ammazzi un pesce, peggio che se spari un cristiano. Li mangiano vivi i pesci loro, non li ammazzano prima? Ma se fino a qualche anno fa non era neppure illegale, se la legge lo consentiva, cosa volete da noi? Cosa volete? Abbiamo pagato funzionari pubblici perché chiudessero un occhio e dicessero che andava tutto bene, lo ammetto. In fondo funziona così. Crede che sarebbe diventata così ricca questa città? Ricca, sì, perché, dottore, il lavoro non è una ricchezza. Abbiamo inquinato, va bene. Abbiamo corrotto per sembrare puliti, perfetto. Se oggi ce ne dovessimo andare, cosa succederà a tutte quelle famiglie? Chi glielo dà da mangiare? Lei, dottore? Lo Stato? La politica è l'arte del compromesso, no? Anche la convivenza civile lo è, non crede? Quando abbiamo finito, posso offrirle un caffè? O preferisce qualcosa di meglio? Patrick Fogli, in libreria con La puntualità del destino. Edizioni PM, 360 pagine, 17,50 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.